Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: la sentenza che a sorpresa, c'è chi la definisce clamorosa, ve l'hanno già raccontata i nostri GR, la sentenza che assolve, perché il fatto non sussiste. La Corte d'Appello di Milano ha infatti deciso che andavano assolti UBS, Deutsche Bank, Depfa Bank e JP Morgan dall'accusa di truffa aggravata ai danni del Comune di Milano per la vendita di prodotti derivati nel 2005. Ricordo che in primo grado, questa appunto è la sentenza d'appello, le quattro banche furono condannate al pagamento di una multa da 1 milione di euro e la confisca di 89 milioni di euro. E quindi assolti con formula piena anche i 9 manager ed ex manager che in primo grado erano stati giudicati colpevoli. Secondo l'accusa, infatti, le quattro banche avevano raggirato l'amministrazione comunale milanese stipulando nel 2005 un contratto swap trentennale che fu firmato dalla giunta Albertini, poi rinnovato dalla giunta Moratti, senza informare come dovuto il comune di tutti i rischi dell'operazione. E il comune di Milano si era costituito parte civile ed era poi uscito dal processo con un accordo di transazione con le quattro banche dal valore di circa 455 milioni di euro. L'aspetto, a mio avviso, rilevante è che questa sentenza potrebbe poi essere una sentenza pilota anche per altre cause aperte su questo fronte. Ne parleremo nella seconda ora del programma, così come sempre nella seconda ora parleremo del bilancio di Telecom Italia. Adesso lo racconto in borsa, però il bilancio evidenzia perdite per 674 milioni di euro, la reazione è negativa, come immaginabile, da parte del mercato, meno 2,5% il titolo. Non saranno distribuiti dividendi né azioni ordinarie, e anche di questo parleremo, perché questo bilancio va a intrecciarsi poi alla vicenda di Team Brasile, quindi cosa fa e cosa farà soprattutto l'azionista di riferimento, gli spagnoli di Telefonica, su quella che è da molti considerata la gallina dalle uova d'oro, cioè la controllata della Team in Brasile, che però è in concorrenza diretta con la controllata di Telefonica in Brasile, per cui si trova in una posizione anche abbastanza così delicata Telefonica. In apertura invece continua il nostro viaggio nei vari settori produttivi, continuiamo a occuparci di settori che vanno dall'elettronica. Ieri abbiamo trattato il biomedicale, la settimana scorsa l'occhialeria, oggi sarà la volta del lusso, che come già anticipavamo ieri è ormai un lusso per un mercato di massa, non più per pochi fortunati, in questo grazie all'apertura dei mercati di decine di milioni di consumatori nei mercati emergenti. E quindi le aziende italiane che lì sono presenti, Made in Italy fortissimo, hanno come unico problema quello dimensionale, perché quando tu ti apri ai mercati come quello cinese, indiano, brasiliano, beh, i numeri che facevi per i soli mercati occidentali nel settore di lusso, che era considerato una nicchia, non reggono più. E infatti resta il lusso come prezzi, ma come volumi, come numero di pezzi venduti, ormai ha le dimensioni di un mercato di massa. E cercheremo di capire, anche perché molto si è discusso in Italia di questo shopping straniero, francese, ma non solo, di marchi prestigiosi italiani. Come sempre la borsa che cede lo 0,80% in questo momento a Milano, l'1,80% a Francoforte, l'1% a Parigi, e Londra perde lo 0,90%. Oltre a Telecom Italia è negativa in maniera significativa la Popolare Emilia Romagna, meno 5,60%, e Buzzi Unice meno 2,80%, Ubibanca meno 2,30%, Atlantia meno 2,20%, Fiat meno 1,80%, Enel meno 1,40% come Banco Popolare Unipolsai. L'1,12% è il calo di Intesa San Paolo e l'1% quello di Toz ed Eni. Parleremo anche di farmaci dopo la sentenza dell'antitrust e l'apertura di un'inchiesta anche della Procura di Roma. Mi riferisco alla vicenda che ha coinvolto le multinazionali Roche e Novartis. Ancora per quello che riguarda i titoli, volete sapere, l'euro è sempre a quota 1,3870 nei confronti del dollaro. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Visto che citavamo la borsa, concludo anche però questo aggiornamento con i titoli che più guadagnano: Pirelli più 2,30, Enel Green Power più 1,5, A2A più 1,20 e Steam Microelectronics più 1% come Saipem. La Cina: per la prima volta un'impresa cinese si è dichiarata insolvente, non è in grado di pagare gli interessi sulle obbligazioni che ha emesso nel 2012. Si tratta della Shanghai Chaori Solar Energy Science and Technology, è un'impresa di Shanghai che produce pannelli solari ed è la prima volta, questo è interessante, che trovandosi in una situazione di non riuscire a pagare il debito, quindi le obbligazioni che ha emesse, non viene salvata dallo Stato, perché di solito invece lo Stato cinese salvava le aziende insolventi. Questo è interessante perché secondo molti analisti potrebbe rappresentare un segnale di un nuovo atteggiamento da parte del governo di Pechino verso le imprese private. La disoccupazione americana è salita al 6,7%, però i posti di lavoro che si sono creati in America nel mese di febbraio sono risultati migliori di ogni previsione. 175.000 nuovi posti di lavoro contro un'attesa di 150.000. Devo dire che la Yellen, il numero uno della Federal Reserve, ha ribadito più volte che finché la disoccupazione non scenderà sotto il 6,5%, la politica monetaria americana resterà accomodante. Mi chiedevate dell'euro sul dollaro perché appunto c'è stato oggi un nuovo massimo dall'ottobre del 2011. E questo si collega a quanto abbiamo appena detto, cioè la Banca Centrale Americana continua a tenere il dollaro basso, stampa moneta, non ha nessun interesse di rialzarlo finché la disoccupazione non cala, e l'euro in questo modo, per via anche delle regole europee, della loro applicazione ragionieristica, continua a essere il vaso di coccio, nel senso che continua a essere più forte di quello che dovrebbe essere. L'euro, dicevo, ha toccato quota 1,3915, il livello più alto dell'ottobre del 2011, poi è sceso a quota 1,386. La Commissione europea, veniamo all'Europa, non penalizza i paesi per la loro partecipazione al fondo salva stati e l'impatto che il contributo ha al fondo ISM sul debito è un calcolo in-out, vuol dire che la Commissione europea non va a calcolare come parte del debito di un paese i soldi che sono stati dati da quel paese per salvare altri paesi dell'area euro. Questo anche dopo un articolo del Sole 24 Ore, ma insomma l'ha detto il portavoce del commissario europeo agli affari economico monetari Olli Rehn proprio a una domanda sull'Italia. Allora, dalla Germania arriva la dichiarazione del vice capogruppo al Bundestag della CDU, quindi del partito di maggioranza relativa, non l'ultimo che passava per caso, poi fa il vice capogruppo al Parlamento, Michael Fuchs, che in un'intervista all'ANSA dice: la situazione italiana non è affatto rosea e la crescita non c'è. Mica gli viene in mente di fare un po' di autocritica sulle politiche messe in atto dalla Germania in questi anni, no. Anzi, dice, il piano di Matteo Renzi, che vuole affrontare una riforma al mese, è necessario vista la situazione, su questo siamo tutti d'accordo. Secondo Fuchs, il nuovo esecutivo dovrebbe riprendere la direzione di Mario Monti. In Italia c'è tanto da fare, una cosa è certa, non abbiamo nostalgia di Silvio Berlusconi. Allora, a parte il fatto che potrei rispondere a Fuchs, chi se ne frega, nel senso che di quello di cui lei ha nostalgia, sa di quante cose della Germania noi non abbiamo nostalgia, cioè ognuno si occupi dei casi suoi, E visto che, ripeto, non è un passante, ma è il vice capogruppo al Bundestag della CDU, quindi del Partito Cristiano Democratico. In secondo luogo, interessante che lei dica che dobbiamo riprendere la direzione di Mario Monti, visto che secondo molti economisti in questo paese, ma non solo, l'errore di Monti è stato aumentare solo le tasse senza ridurre la spesa pubblica e senza creare misure per la crescita. No, perché Fuchs deve un attimo mettersi d'accordo con se stesso. Se non c'è la crescita, forse è anche colpa di una domanda interna che è inesistente, di consumi crollati. I consumi sono crollati dal 2012, tutti i dati sono inesorabili su questo, dall'avvio delle manovre volute fortemente dalla Germania per ridurre il nostro deficit. Devo dire che Mario Monti, che noi appoggiammo nel senso che era importante anche rassicurare i mercati all'inizio, poi non ha fatto nulla sul fronte della crescita interna. Non c'è stato un calo della spesa pubblica, non c'è stata una riorganizzazione della pubblica amministrazione, non c'è stata un'iniziativa né la capacità di andare in Europa a dire: scusate, noi stiamo facendo i compiti, ma abbiamo bisogno anche di non distruggere il mercato interno, che poi è distrutto, l'inflazione è inesistente anche per questo. Allora Fuchs si metta d'accordo con se stesso. Se dobbiamo riprendere la direzione di Mario Monti, è probabile che andremo avanti con politiche recessive come quelle che abbiamo applicato, e quindi la crescita non ci sarà. Di quello che poi lei ha nostalgia, si figuri. Perché lo stesso Mario Monti, parlando in una conferenza organizzata dal governo maltese con l'Economist, ha detto che la crisi, attenti bene, gli artefici della crisi economica che ha colpito solo l'area euro, perché ripeto, noi siamo l'unica area al mondo che si è beccata la seconda crisi, sono stati Germania e Francia con la complicità dell'Italia. La crisi non era una questione del Sud Europa, e non è certo la Grecia che ha portato la crisi economica, lo sosteniamo da anni. Sono stati la Germania e la Francia con la complicità dell'Italia. Vorrei capire la complicità poi chi l'ha organizzata, visto che anche lui faceva Presidente del Consiglio. Ma detto questo, dimostra che Mario Monti non la pensa come chi vorrebbe che invece venissimo gestiti come da Mario Monti. Bellissima. Ma stiano attenti i tedeschi con questo eccesso di lezioni, perché la ruota gira, girò per loro anche nel 2003 quando sforarono il deficit prima di noi, e nel 2002. Attenzione, tutti riconosciamo i progressi, le riforme fatte dalla Germania, ma attenzione a fare i primi della classe, poi ci si sbroda, così è un consiglio. Andiamo all'Italia. Oltre a Telecom Italia e alla soluzione sui derivati al Comune di Milano, di cui parleremo, Mediobanca continua a vendere azioni della Rizzoli Corriere della Sera, è scesa anche sotto il 10% del capitale, aveva il 15% a settembre del 2013, ha praticamente in 6 mesi ceduto un terzo della quota, lo si apprende oggi dalle comunicazioni Consob. Al 9,93%, al 28 febbraio scorso aveva il 9,93% della Rizzoli Corriere della Sera. E quindi diventa sempre più forte la posizione della Fiat, che resta il primo azionista del gruppo Rizzoli Corriere della Sera con il 20,5% del capitale. La vicenda Sorgenia, controllata dalla CIR, che ne ha il 53%, la CIR di De Benedetti. Allora, controproposta di Sorgenia alle banche creditrici, prevede il piano un aumento di capitale da 190 milioni di euro, la conversione in strumenti partecipativi da parte delle banche di 400 milioni di euro di debiti, immagino voglio dire azioni o forse obbligazioni, non capisco. L'aumento di capitale sarebbe partecipato per 100 milioni dalla CIR, che lo sottoscriverebbe per la sua quota in Sorgenia. La parte inoptata, visto che il socio austriaco Verbund ha azzerato il valore di quella quota e non vuole più sapere di Sorgenia, non vuole più partecipare all'aumento del capitale, potrebbe essere sottoscritta dalle banche, che acquisirebbero così una quota azionaria riservata a un eventuale investitore interessato a scommettere sul rilancio di Sorgenia. Ricordo che le banche chiedevano però alla CIR di partecipare almeno per 150 milioni di euro, e il braccio di ferro era proprio su quanti soldi avrebbe dovuto mettere la CIR di De Benedetti. Loro continuano a insistere su 100 milioni, vedremo se poi si arriverà a un accordo su questo. Il disagio sociale in Italia continua a aumentare, con buona pace di Fuchs. Ma venga a farsi un giro in Italia a vedere come mai i consumi non ripartono, a vedere che abbiamo avuto un calo del 5% anche nei consumi alimentari l'anno scorso, non era mai successo da quando misuriamo le serie storiche, no? Dice il problema d'Italia che non cresce, ma voglio dire, prima l'ammazzi di tasse inutilmente, perché se poi il PIL non cresce, il tuo deficit sul PIL continua a essere non desiderabile, è meglio che cresca il denominatore, no? E così riesce a reggere anche un numeratore più alto. Però insomma, vabbè, tanto cosa glielo vuoi spiegare ai tedeschi, questa cosa non capiranno mai. Comunque il Misery Index elaborato da Confcommercio sale anche a gennaio di 0,3 punti, visto che ci sono a questo punto a gennaio 3.293.000 disoccupati, con una crescita di altri 60.000 disoccupati a gennaio rispetto a dicembre, e sono 260.000 disoccupati in più rispetto a un anno prima. Capisce Fuchs perché l'Italia non cresce? Perché il disoccupato ha questa strana caratteristica che tende a non spendere. So che è strano, ma tende a non spendere il disoccupato. È fatto in maniera strana il disoccupato. Tende a consumare meno e non spendere. Non so, anche Atlantia, ossia la società Autostrade, segnala come il traffico autostradale nella rete italiana sia calato di un altro 2% quasi nel 2013, e tra l'altro sono calati soprattutto i camion, vengono chiamati a tre o più assi, del 2,5%, e il traffico di auto normali, auto per uso privato, è calato dell'1,5%. Allora, veniamo alla vicenda della truffa al Servizio Sanitario Nazionale e dell'aggiotaggio di cui sono accusate due colossi della farmaceutica, Roche e Novartis. La presunta campagna di denigrazione del farmaco Avastin, che ha indotto l'antitrust a comminare una multa da 180 milioni di euro sia a Roche che a 90 testa, a Roche e Novartis, perché avrebbero creato un cartello condizionando le vendite dei principali prodotti destinati alla cura della vista, c'è l'Avastin e c'è il Lucentis, che vengono utilizzati per curare tra le altre cose la degenerazione maculare senile, che è la prima causa di cecità nei paesi industrializzati. Nel dettaglio, secondo l'accusa, i due gruppi farmaceutici si sarebbero accordati per ostacolare la diffusione del farmaco più economico, l'Avastin, che costa tra i 15 e gli 80 euro, a vantaggio di un prodotto più costoso, si chiama Lucentis, che costa 900 euro. 900 euro. Ma gli effetti e l'efficacia sono analoghi, secondo quanto emerge dagli ultimi test condotti. E tra l'altro questo ha avuto un peso anche per il Servizio Sanitario Nazionale, 45 milioni di euro nel 2012, e si stimano possibili costi aggiuntivi per oltre 600 milioni di euro. Va detto che tra i primi ad accorgersi di questo sono state la Società Oftalmica Italiana e le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, che effettuano bandi di gara in base alle molecole e non ai marchi dei farmaci. L'Emilia ha fatto sapere che se non avesse dovuto spendere i soldi per il Lucentis avrebbe potuto assumere 69 medici oppure 150 infermieri. Allora, se poi l'accusa, l'antitrust ha già operato bene, i soldi che dovranno pagare, c'è un ricorso al TAR del Lazio, se però verrà confermato l'impianto accusatorio, è giusto che questi soldi vengano ridati alle regioni che li hanno già spesi e magari riescono a fare queste assunzioni o di medici o di infermieri. Il presidente della società oftalmologica italiana, Matteo Piovella, ha apertamente accusato l'AIFA di avere fornito una sponda alle multinazionali coinvolte. L'AIFA è l'Agenzia Italiana per il Farmaco. Ebbene, il direttore dell'Agenzia Italiana, Luca Pano, ha annunciato su questo querela, lo ha fatto a 24 mattina. il dottor Piovella, e io non amo, insomma, non è compito delle istituzioni fare delle dichiarazioni ad effetto o partecipare a delle cose che hanno degli impatti mediatici, ma poi sono molto più gravi. Quindi risponderà eventualmente, e questo sarà fatto dai nostri uffici legali nella giornata di oggi, delle affermazioni che ha fatto, che sono affermazioni pesantissime. E cioè querelerete la società di oftalmologia? No, non c'è nessun dubbio, ed è una cosa che ovviamente è dovuta ed è necessaria, perché non si può neanche minimamente adombrare il fatto che né io né quelli che lavorano nella commissione tecnica scientifica abbiano minimamente partecipato a queste associazioni a delinquere. Sono cose gravissime che sta dicendo Piovella, se gli fa piacere dirle pubblicamente, se ne prenderà le responsabilità. Quindi non c'è nessuna corruzione, noi non prendiamo soldi e siamo una di quelle istituzioni con la schiena dritta, anzi drittissima, penso che la faccenda Stamina lo abbia dimostrato. Allora, Quereli faccia quello che deve fare, però faccio notare che l'AIFA, e quindi il direttore dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, è quella che ha detto che i due farmaci hanno usi diversi. Ok, allora intanto è che uno, se non ricordo male, è per uso oftalmico, l'altro per uso oncologico. Allora, anche l'AIFA, Luca Pano, va bene, Quereli, se vuole Piovella, sono fatti i suoi, però magari ogni tanto un po' di autocritica nella vita. Forse avete preso una cantonata, no? Forse è giusto, se lei si ritiene offeso e leso nella sua dignità dall'accusa di aver fornito una sponda alle multinazionali, perché è un'accusa molto perniciosa, poi vuol dire che c'è il rischio di pensare che poi le multinazionali abbiano fatto pressione, sappiamo nel passato cosa è successo, viaggi, congressi, quant'altro. Ha ragione se si ritiene leso nella sua onorabilità, però mentre difende la sua onorabilità, se vuole essere credibile, faccia anche un po' di autocritica, perché se adesso è dimostrato che i due farmaci sono uguali e hanno uno un costo di 15-80 euro, l'altro di 900 euro, le regioni italiane hanno sborsato più soldi del previsto, forse dire vabbè, ci siamo sbagliati anche noi, chiediamo venia, oppure invece lei ritiene che siano due farmaci diversi, e allora replichi all'antitrust e alla procura di Roma che ha aperto un'inchiesta, ma che querelare solo la società oftalmica, va bene, oftalmologica, scusatemi, va bene, ma non risolve il problema del perché l'Agenzia Italiana per il Farmaco abbia avallato questa doppia visione di due farmaci che invece risultano uguali. Anche perché il danno creato al Servizio Nazionale Sanitario Nazionale di almeno 45-50 milioni di euro lo ha ribadito questa mattina, sempre a 24 mattino, condotto in questi giorni dal nostro Simone Spezia, il presidente dell'antitrust Giovanni Pitruzzella. Sentiamo questo, che parla anche di un problema regolatorio. La nostra è una stima assolutamente prudenziale, molto prudenziale, e la nostra stima fa riferimento a 45 milioni per l'anno passato, ma ci sono proiezioni per gli anni a venire di svariate centinaia di milioni di euro, e quindi appunto chiaramente delle stime più attendibili, nel senso che potrebbe essere ben maggiore. Noi ci siamo mantenuti molto prudenti e potrebbero venire, come stanno arrivando in questi giorni, dalle regioni. Naturalmente, perché sono coloro che hanno pagato poco attraverso il servizio sanitario, il farmaco. Certo, Presidente Pitruzzella, io sarei quasi tentato di farle una sola domanda: se in questa indagine avete verificato, al di là del caso specifico, che c'è un buco regolatorio da risolvere. Ma guardi, noi ovviamente ci siamo concentrati, perché questo è il nostro compito, e sul comportamento delle multinazionali che concordavano delle pratiche proprio che, come quelle che le ha descritto. Ho però l'impressione è che un problema regolatorio ci sia in generale sui farmaci, ma lì dovrebbe essere il governo e il Parlamento a mettere mano. Noi come autorità antitrust probabilmente faremo una segnalazione nell'ambito della legge annuale sulla concorrenza, in cui diremo alcune cose che non vanno. anche in questa vicenda poi è stata, direi, esasperato i difetti del sistema regolatorio. Per esempio c'è una comunicazione dell'AIFA che invitava anche chi operava in regime libero professionale, quindi al di fuori del servizio sanitario, a non utilizzare un farmaco anziché l'altro. Sì. E ricordo che noi già ci siamo occupati dei farmaci precedentemente, magari la vicenda ha avuto meno risalto mediatico, ma è altrettanto grave. Abbiamo sanzionato un'altra multinazionale, la Pfizer, e la nostra decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, quindi è definitiva, proprio perché impediva la diffusione dei farmaci generici. E se non interveniamo noi, dando voce a tutti coloro che non hanno voce, dando voce ai consumatori deboli, dando voce ai medici che si lamentano, non è intervenuto nessuno anche in quel caso. Così il presidente dell'Antitrust Giovanni Petruzzella. Devo fare una correzione, un refuso. Il direttore dell'Agenzia Italiana per il Farmaco si chiama Luca Pani. Luca Pani, non Pano, ho sbagliato io, c'era un errore nel testo, ci mancherebbe, chiedo scusa. Però Luca Pani, direttore Pani, ripeto per la terza volta, quereli pure se si sente offeso nella sua dignità, ma ci aiuti a capire come mai non vi siete accorti che i due farmaci erano uguali per tutti i due utilizzi e invece in un caso lo davate per uso oncologico, nell'altro per uso oftalmico. Ci aiuti, ci tolgo ogni dubbio sul fatto, e casomai chieda a Venia, dica che si è sbagliato, può sbagliare anche l'Agenzia Italiana per il Farmaco, però ci tolga ogni dubbio, veramente ce lo tolga, ci chiami Luca Pani, ci chiami. Allora, intanto oggi da Napoli arriva la notizia che la Guardia di Finanza sta notificando ai 60 consiglieri regionali della Campania altrettanti inviti a sono invitati a chiarire alla Guardia di Finanza alcune spese. Praticamente riguarda l'inchiesta contabile sulla gestione del fondo per l'assistenza alle attività istituzionali, una somma che oscilla tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro, per la quale non sono stati presentati rendiconti, e quindi la Guardia di Finanza vuole almeno i rendiconti di questa spesa. Mi sembra il minimo nel giorno in cui una buona notizia arriva da Napoli, e cioè l'accordo per ricostruire la città della scienza è stato trovato. La riunione si è svolta al Dipartimento dello Sviluppo e della Coesione. Faccio notare che Radio 24 dalla prossima settimana inizierà un lungo viaggio nel nostro mezzogiorno, andremo con i programmi a Napoli, a Bari, a Catania, a Palermo, raccontando le difficoltà, e avremo un viaggio tutte le settimane all'interno del principale GR che racconta le difficoltà di un'area del paese che è massacrata ancora di più di un paese che è già massacrato da questa crisi, e un'area che, se non troverà un suo riscatto, difficilmente permetterà all'Italia intera di conoscere una vera e propria ripresa economica, ma anche per raccontare storie di coraggio e di successo di chi ce l'ha fatta nonostante fare impresa al sud sia ancora più difficile che fare impresa nel resto del paese, perché oltre alla burocrazia, il fisco, hai anche a che fare con una criminalità organizzata che è asfissiante e strangolante. Comunque, dalla settimana prossima saremo a Napoli, poi a Bari, Catania, Palermo, e racconteremo con parte del programma l'economia di quelle regioni. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso andiamo in pubblicità. ...17:40 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. C'è chi dice, vabbè, lei è un asino perché fare impresa al sud è difficile per la criminalità organizzata, ma c'è anche a nord, lo sappiamo benissimo, abbiamo fatto decine di inchieste, pezzi, la ringrazio per il suggerimento, però possiamo dire che è un po' più difficile fare impresa al sud per via della criminalità, oppure no? Nessuno ha detto che al nord non ci sia, abbiamo inchieste anche dalla settimana scorsa del ruolo dell'Andrangheta in Lombardia. Alcuni dicevano, alcuni imprenditori lombardi, alcuni anche governanti lombardi sostenevano che non ci fosse un problema, ma noi le abbiamo sempre raccontate queste cose, per cui non so, non capisco la polemica. Invece vorrei cambiare argomento e, argomento e continuare il nostro viaggio nei settori del Made in Italy che crescono nonostante la crisi. E dopo aver fatto chieleria, biomedicale, elettronica, oggi è la volta del lusso, fermo restando che potremmo dire con un titolo il lusso non è più quello di una volta, nel senso che i numeri sono da mercato di massa più che da mercato di nicchia. Eh sì, parliamo del lusso, perché perché il lusso non è più quello di una volta, potremmo dire con una battuta. Già vi accennavamo alcuni giorni fa, non solo e non tanto per i titoli quotati in borsa nell'S&P MIB, che sono presenti, Tod's, ma non solo, citiamo spesso anche Ferragamo, Yux per alcuni versi, World Duty Free per altri, ma... e poi chiaramente tutti i marchi che anche in questo periodo sono stati comprati, poi arriveremo al punto, da investitori stranieri. Ma il tema del lusso ci interessa per due motivi. Un primo motivo, che è quello a cui facevo riferimento, perché in borsa e proprio i titoli del lusso l'anno scorso non hanno conosciuto crisi, anzi è il settore che forse ha performato meglio assieme ad alcuni bancari in borsa. Ma per l'altro fronte, per la notizia che ricordavamo due settimane fa, e cioè che nel 2013 i consumatori cinesi hanno acquistato il 47% di tutti i beni di lusso venduti nel mondo. La cosa interessante è che i cinesi l'anno scorso hanno speso per beni di lusso 102 miliardi di dollari. In realtà il 60% di questa spesa è avvenuta fuori dalla Cina, e quindi New York, Parigi, Francoforte, Londra, anche Roma, Milano, quando riescono ad arrivare, diciamo, visto che i collegamenti aerei non sono sempre facilitanti. E già altre volte abbiamo detto che uno dei problemi del nostro paese è che quando i turisti cinesi arrivano in Italia arrivano col portafoglio già sgonfio, perché se atterrano a Parigi, a Londra, a Francoforte, lo shopping forte lo fanno lì, magari comprando prodotti italiani, ma poi l'IVA e i benefici sull'economia restano in quei paesi. Ma dicevo, il lusso non è più quello di una volta, perché noi siamo abituati a parlare di lusso giustamente come di un settore di nicchia, per definizione, no? Il lusso è per pochi, per i pochi fortunati, per gli happy few. E in realtà la globalizzazione ha portato un cambiamento radicale anche in questo, perché resta un mercato del lusso, e quindi di prezzi alti, prodotti di pregio, ma i numeri a cui stiamo assistendo sono numeri da mercato quasi di massa, perché quando tu hai 250 milioni di cinesi in grado di avere un potere d'acquisto simile a quello europeo, è chiaro che tu hai creato un nuovo continente, una nuova gli Stati Uniti 2, se vogliamo dire, che vanno a modificare chiaramente tutte i numeri, le percentuali di vendita nel settore del lusso. Ne vorrei parlare con il presidente di Leading Luxury Group, Enrico Ceccato. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Voi avete appena creato il principale polo italiano di prodotti per la cosmesi e nel reparto beauty, quindi cura della persona, che sono settori classicamente del lusso. Avete una quota del 53% italiana nel comparto beauty, del 22% nella cosmesi, ma come LLG avete anche investito complessivamente 200 milioni di euro, di cui una buona parte, quasi metà, proprio nel settore lusso. Allora, io vorrei capire una cosa. Si dibatte molto dei marchi italiani che vengono ceduti, Blackstone che compra il 20% di Versace, Crizia, vabbè, era un marchio forse un po' decotto, comprato dai cinesi, ma Poltrona Frau all'americana Harvard, Louis Vuitton che ha comprato nel frattempo Bulgari, Pucci, Loro Piana, Fendi, e il gruppo francese Kering, che è il vecchio PPR, che ha acquistato Bottega Veneta, Sergio Rossi, Pomellato, Gianfranco Ferré che è finito al Paris Group di Dubai, Valentino nella Casa Reale di Qatar, tutti a dire: attenzione, qui stiamo svendendo, ci stanno cedendo i marchi di prestigio. Vorrei capire se il problema è questo e perché dovremmo valutarlo come un problema l'acquisto di marchi italiani da parte di grossi investitori internazionali. Ma il problema è che non siamo riusciti a trovare gruppi o imprenditori in Italia che abbiano fatto esattamente la stessa cosa che hanno fatto questi imprenditori nel resto del mondo. In fondo il gruppo Louis Vuitton e Bernard Arnault in particolare hanno semplicemente avuto la visione parecchi anni fa di mettere insieme marchi del lusso provenienti da diversi paesi. In Italia hanno attinto molto, creando un gruppo che fa sinergie e diventa sempre più forte man mano che cresce. Non siamo riusciti ad avere degli imprenditori, principalmente imprenditori, e anche degli stimoli arrivanti che dovevano arrivare dalla finanza che permettessero di fare la stessa cosa. Avevamo l'occasione, non l'abbiamo fatto. Restiamo su questo, perché adesso ho il traffico, mi interessa particolarmente. Perché poi, insomma, non per giustificare gli imprenditori, quello dimensionale è un problema storico, però storico della nostra impresa, è anche vero che forse i vari Loropiana, Bulgari, Pucci, Frau erano abituati a lavorare in un altro mondo del lusso, con dimensioni e numeri molto più piccoli, però dopo il traffico. Allora, dicevo al presidente del Leading Luxury Group, Enrico Ceccato, è vero, le dimensioni, soprattutto quando le vacche erano grasse, quando l'economia andava bene, sono state un errore nelle strategie di alcune nostre imprese, cioè le hanno tenute troppo piccole queste dimensioni, però è vero che se parliamo del lusso, una volta ci riferivamo a qualche decina di migliaia di persone, gli happy few, i fortunati, che potevano acquistare certi beni, qualche centinaio di migliaia di persone. Qui ragioniamo su decine di milioni di numeri. Allora forse i marchi che ho citato sono stati anche spiazzati dall'emergere sull'ingresso di decine di milioni di consumatori cinesi, indiani, sudamericani. Certamente lo sviluppo del retail è stato l'elemento centrale. Per fare retail a livello globale bisogna essere molto attrezzati, non si può andare con la valigetta, come spesso dico, cercando di aprire negozi nelle principali avenue del mondo man mano che queste si sviluppano a dei tassi clamorosi. Quindi il retail, che è l'essenza del lusso, diciamo, è l'elemento discriminante. Io farei dei leggeri distinguo tra le diverse aziende che hai citato. Ci sono molte aziende che sono nate con il designer, e il designer è rimasto il proprietario dell'azienda fino ad oggi. Ci sono altre aziende, citato Bulgari, che sono state prese in mano da un manager che faceva parte della famiglia, esatto, che ha preso un artigiano dell'estremo lusso del gioiello e ne ha fatto un'industria del gioiello. Quindi lui è riuscito a fare un passaggio molto simile a quello di altri gruppi. Poi, anche perché probabilmente lui era da solo, aveva ancora i familiari che a un certo punto volevano monetizzare, ha deciso di passare la mano e integrare Bulgari all'interno di Louis Vuitton. Ma il vero tema è che gli altri gruppi sono guidati da persone che hanno un misto di capacità manageriale, finanziarie e di visione per creare gruppi di questo tipo. Non sono necessariamente il designer che poi diventa un grande aggregatore di altri marchi. Per definizione il designer è molto geloso del suo marchio, del suo territorio, dei suoi prodotti. Quindi io credo che proprio ci siano mancate delle figure aggregatrici con caratteristiche manageriali finanziarie, diciamo. Ecco, una cosa la voglio chiarire. Delle vicende di acquisizioni straniere di marchi italiani, la cosa che va detta nel settore soprattutto della moda, abbigliamento, lusso in generale, che nessuno ha delocalizzato o ha ridotto poi la presenza in Italia. Attenzione bene, addirittura Louis Vuitton ha aumentato, ha investito 130 milioni di euro nella Valle del Brenta, ha aumentato la produzione italiana. Questo a dire che quando tu hai gli artigiani know-how, artigiani non vuol dire il ciabattino, con tutto rispetto, vuol dire know-how, fior fior di esperienza, di investimenti, ricerca e sviluppo, poi uno non viene a comprarti un marchio per distruggerlo, lei mi insegna, no? Da questo punto di vista uno tiene e anzi vuole che Bulgari continui a essere Bulgari, che Gucci continui a essere Gucci, Fendi, Loropiana, per citare i casi principali. Vedo alcuni messaggi, attenzione, può sembrare strano parlare del settore del lusso in un momento di crisi così forte, della crisi più forte, però ripeto, quando non ragioni più in termini di decine di migliaia di pezzi, ma di centinaia di migliaia di pezzi e milioni di pezzi, dicevo al giorno, quindi milioni di pezzi prodotti, beh, a questo punto l'acqua San Pellegrino in moltissimi ristoranti al mondo è considerato un bene di lusso, è un'acqua cara. Sapete quante bottiglie produce San Pellegrino nell'Alto Bergamasco? 1 miliardo di bottiglie. Allora, è un settore di lusso, sì, perché viene distribuito nei ristoranti, diciamo, di prestigio a livello mondiale, ma è un settore che fa massa per il numero a cui si è arrivato. Questa tendenza voi la vedete in tutti, cioè che sia cosmesi, che sia abbigliamento, che sia gioielleria? Noi abbiamo visto, per esempio, nel caso della nostra rete di profumerie in Italia, che è sempre stata leader nella numerica, ma per molti anni aveva un posizionamento medio-basso. Abbiamo riposizionato l'intera catena nel prestige, cioè nella parte alta dei prodotti della cosmetica, e i nostri risultati oggi, nel massimo momento di crisi italiano, sono in netta crescita. Quindi vuol dire che anche nella crisi, comunque, il bene di lusso di massa, chiamiamolo così, quello che è accessibile, il lusso accessibile, è comunque un target di riferimento importantissimo, è aspirazionale. E come diceva, non so se l'hai mai sentita, la teoria di Estée Lauder, diceva che ha formulato nel 29, diceva che in quel periodo della grande crisi americana si vendevano più rossetti rossi. Beh, perché il lipstick index. Esatto, perché le donne in momento di crisi comunque trovano in quel prodotto, che comunque è accessibile, uno dei pochi, un poche soddisfazioni per riportare sul morale. Siamo occupati, è uno degli indicatori sull'andamento economico non convenzionali, quando c'è una crisi economica aumentano le vendite di rossetto, e per lo rossetto, il lipstick index in realtà vuol dire cosmesi in generale, perché non hai i soldi per fare un viaggio, per andare al mare, per cambiare anche abbigliamento, almeno vai dal parrucchiere, ti compri una crema in più o un rossetto. Questo è un dato che noi vediamo ormai storicamente, uno degli indici più osservati assieme alla lunghezza delle gonne delle donne, che si accorcia in periodi di espansione e si allunga in periodi di crisi. Non è una battuta, sono tutti indicatori su cui gli americani si dilettano da decine d'anni. Voi avete, appunto, come Orlando, vabbè, ma la Gardenia Beauty soprattutto, 170 punti vendita, e siete la più grande catena di profumeria in Italia, quindi è importante vedere come si sposta la fascia. Ricordo ai nostri microfoni Andrea Guerra, numero uno di Luxottica, raccontarci che aveva aperto 300 punti vendita in Cina, 300 punti vendita, solo per riuscire a presidiare i principali nuclei urbani, quindi quelle 15 città sopra i 10 milioni di abitanti, e riusciva solo a essere presente in queste città, per dare l'idea delle dimensioni. Quello che voi notate, per concludere, nelle vendite del lusso, che stanno diventando vendite di massa, perché, ripeto, non ci siamo impoveriti, ma ci sono decine di milioni di nuovi ricchi che si sono creati nel resto del mondo. Ecco perché l'Italia deve puntare su questo, non può andare in concorrenza sui prodotti a basso valore aggiunto cinesi, thailandesi o vietnamiti che siano. Dicevo, il vero problema è, a mio avviso, numerico, perché è ovvio che i marchi che ho citato restano di alta fascia e quindi poco accessibili, ma il ragionamento che voi fate, se ho ben capito, è: certo, se però tu una volta all'anno o una volta nella vita compri una borsa di pregio, non voglio far nomi se non siamo pubblicità, compri un paio di scarpe di pregio, compri il profumo di pregio, moltiplicato, ma mi aiuti lei a capire il ragionamento, per i numeri che vediamo adesso, beh, questo fa sballare completamente l'andamento rispetto agli anni precedenti. Il lusso è comunque aspirazionale, qualunque persona aspira a provarlo una volta nella vita. Da dove comincia? Dai prodotti accessibili, del lusso accessibile. I prodotti che hai citato sono tutti accessori che hanno dei prezzi che sono comunque ragionevolmente raggiungibili anche dalle persone che, mettendo da parte un po' di soldi, una volta nella vita lo fanno. Quindi i numeri sono clamorosamente esponenziali, le crescite che vedi nel lusso sono figlie di questi prodotti. Quando i nostri grandi marchi citano 20% di crescita, 30% di crescita in Asia, certamente non vendono vestiti da 4.000 euro in milioni di pezzi, vendono profumi, accessori, gioielli, diciamo, anche di bigiotteria, e tutti questi prodotti che sono sì del lusso ma accessibili, e lì sono milioni di pezzi, quindi... E quindi cambia completamente la prospettiva. Nel ringraziarla, ecco perché poi dico attenzione, noi su quello che una volta era una nicchia, ma quando la nicchia riguarda decine di milioni di persone non è più una nicchia. Ci giochiamo parte del nostro futuro industriale, anche perché i consumi prima o poi ci auguriamo ripartano, ma è inutile raccontarsela, la ricchezza si sta creando in altre aree del pianeta. non è più il nostro giro, anche se questo non vuol dire deprimersi. Ma ricordo, per concludere, la stima che De Beers, quindi praticamente il monopolista dei diamanti al mondo, fece 10 anni fa, dicendo: attenzione, se in Cina vi sarà un utilizzo, un acquisto di diamanti nella media di quello che è in Europa e in America, quindi dal piccolissimo carato, da punti di carato al diamante più importante, ma se si sviluppasse un acquisto di diamanti come abbiamo nel resto del mondo occidentale, noi non avremmo abbastanza diamanti, perché non ce ne sono in natura. Grazie e in bocca al lupo a Enrico Ceccato, presidente di Leading Luxury Group. Grazie. Alle 18 e 8 minuti riprende Focus Economia per commentare adesso la borsa, poi i conti Telecom Italia e poi anche la sentenza della Corte d'Appello che a sorpresa ha ribaltato l'accusa per quello che riguarda la vicenda dei derivati venduti al Comune di Milano. Allora, la borsa, meno 1% Milano, meno 2% Francoforte, meno 1,15% Parigi, meno 1,12% Londra, peggior titolo Popolare Emilia Romagna, meno 5,70%, Buzzi Unice, meno 3%, Ubibanca, meno 2,60%, di Telecom Italia parleremo dopo, perde il 2,60%, il 2,5% lo cede Atlantia, ma anche Fiat. Pirelli più 1,90, Enel Green Power più 1,80, ST Microelectronics più 1,1 come Saipem e A2A, Pop Milano più 1%, CNH Industrial più 0,80% come Terna. Allora, al di là del caso Telecom Italia, l'altro caso è la Popolare Emilia Romagna, il 5,70% di calo, 8,1 euro per azione. Chiara Di Cristoforo, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Vai. Allora, il titolo della Popolare Emilia Romagna paga ancora le dichiarazioni che sono state rilasciate dall'amministratore delegato Luigi Odorici, che ha ipotizzato un cambio di posizione di idea su eventuali aumenti di capitale. Durante la conference call sui dati, lui ha detto che sui requisiti di patrimonializzazione vede che il mercato sembra aver alzato l'asticella e quindi il management potrebbe rivedere quanto detto finora, cioè non c'è bisogno di un aumento di capitale. Sui timori di questa richiesta di fondi agli azionisti, il titolo sta scendendo già da due sedute e oggi ha registrato questo calo pesante. Tra l'altro andavano male tutte le popolari in mattinata, invece hanno poi recuperato facendo meglio delle altre banche e l'unica veramente pesante è stata proprio la Popolare Emilia Romagna. Sì, è vero, l'unica veramente pesante è anche Ubibanca, non se la passa bene, meno 2,70 per del 60%, però non un calo così forte. Sul fronte di chi invece è cresciuto, Pirelli più 2%, sì. Abbiamo visto invece rallentare Finmeccanica, che era salito dopo un annuncio, poi in realtà sì, ha ritracciato. Prego. Sì, infatti è stato annunciato questo riassetto del business della difesa. Il mercato apprezza quando Finmeccanica dice che si concentrerà solo su un asset, che è in particolare quello della difesa, e uscirà invece dal settore trasporti, che è quello che rende meno. Quindi stamattina il titolo era stato molto premiato, era uno dei migliori del listino e aveva rotto dal punto di vista grafico quota 7 euro, quindi aveva superato quota 7 euro. Ha poi ripiegato insieme a tutti i listini nel pomeriggio, dopo l'annuncio da parte di Gazprom, anzi la minaccia da parte di Gazprom di sospendere i rifornimenti a Kiev, e ha chiuso praticamente in leggero rialzo. Ancora A2A in attesa dei conti più 1%, sì. E invece vorrei un commento su due titoli più sottili, RCS, Rizzoli, Corriere della Sera, perché oggi abbiamo scoperto che al 28 febbraio Mediobanca è scesa al 10%, sotto il 10% di Rizzoli Corriere della Sera, ne aveva il 15 sei mesi fa, ha già ridotto di un terzo la sua partecipazione. Mi sembra un trend che Nagel aveva già spiegato, insomma, che va avanti in maniera strutturale. Dall'altro invece Molmed, perché ci siamo occupati di biomedicale ieri e dell'inchiesta dell'accusa dell'antitrust oggi, di questi giorni, su Roche, ma non solo. Ma Molmed, che fa ricerca farmaceutica, è cresciuta molto su notizie vere, diciamo notizie forti, non voci. Sì, esatto, partiamo proprio da Molmed, perché questa mattina ha diffuso questo comunicato in cui ha annunciato di aver chiesto all'Agenzia Europea dei Medicinali di poter mettere in anticipo sul mercato una terapia, si tratta di una terapia che hanno studiato in azienda, che riguarda pazienti affetti da leucemia ad alto rischio. È una terapia che si basa sulle cellule staminali, e i risultati che sono stati illustrati nelle prime conferenze mediche, nei primi incontri medici, sono positivi, e adesso si attende il via libera dell'Agenzia Europea, ma questo è bastato per far chiudere il titolo tra i migliori del listino. In giornata è arrivato a guadagnare anche il 7%. Per quanto riguarda RCS, sì, come ricordavi tu, Mediobanca è scesa ancora sotto il 10%, siamo al 9,93%, datato il 28 febbraio. Era un'operazione attesa, era nelle corde. Questo dobbiamo notare che fa aumentare un pochino il flottante di RCS, di RCS, sì, che era comunque molto ridotto. Lunedì è atteso il consiglio di amministrazione, quindi anche questo sta dando un po' di fiato al titolo. Miglior titolo, Centrale Latte Torino, ancora per l'accordo con la Cina, penso, o mi è sfuggito qualcosa, più 17%, Intech più 10%, e poi Geox più 9%, Elica più 8,24%, peggior titolo Worldspace meno 13%, Banca Popolare, l'abbiamo detto, dell'Emilia Romagna, Seat pagine gialle, perde il 5,56%, BB Biotech il 3,70%. Grazie a Chiara Di Cristoforo e buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Noi restiamo in borsa, perché al di là della variazione, che comunque è significativa, meno 2,60%, oggi sono usciti gli attesi conti di Telecom Italia, ma soprattutto anche le attese dichiarazioni del numero 1 Patuano. €674 milioni di perdite nel 2013, pesano le svalutazioni di alcune partecipazioni, i ricavi sono calati del 5%, gli utili prima degli interessi, l'EBITDA è del 7,6%, è migliorato il perimetro sull'Italia negli ultimi tre mesi, non vi sarà dividendo e quindi distribuzione degli utili per i possessori di azioni ordinarie, per i possessori di azioni di risparmio il dividendo invece sarà di 2,75 centesimi di euro, il debito è sceso sotto i 27 miliardi a 26 miliardi e 800 milioni di euro. Le attese sono di un recupero dei risultati, ma a me interesserebbe capire che cosa sarà di Telecom, perché ringrazio Antonello Olivieri del Sole 24 Ore, buonasera Antonella. Buonasera. Perché al di là di questo bilancio, su cui ti chiedo comunque un commento, laddove vi dovessero essere delle sorprese rispetto a quanto atteso, la vicenda continua a essere Team Brasil. Spiego in una battuta, diciamo prima, Team Brasil è la controllata di Telecom nella telefonia mobile in Brasile, è una gallina dalle uova d'oro, va benissimo, però da quando gli spagnoli sono i soci di maggioranza relativa, la telefonica dentro Telco e quindi dentro il socio di maggioranza relativa, la domanda è cosa faranno gli spagnoli di Team Brasil, perché è in concorrenza diretta con la loro controllata brasiliana, non so se mi sono fatto, e quindi si trovano in un minimo di conflitto di interessi. Da un lato sono azionisti di riferimento di Team Brasil, anche, che hanno contratto di Telecom, dall'altro però questa è la loro concorrente della loro controllata di telefonia mobile in Brasile. Oggi Patuano ha detto una frase che non ho capito: abbiamo chiarito la nostra posizione su Brasile, siamo lì per restare con un atteggiamento razionale su opzioni future. Ma che vuol dire? Ecco, vuol dire che effettivamente, come dicevi tu, per Telefonica, per andare avanti, avevano un'opzione per salire al 22% di Telecom acquistando le quote degli italiani in Telco, e però questa opzione è bloccata di fatto dalle autorità brasiliane, perché per le autorità brasiliane gli spagnoli hanno il piede in due scarpe, cioè nel primo operatore mobile del paese, che è loro, che è Vivo, e in Team Brasil, che è di Telecom. E, tant'è che diciamo dal 24 settembre, quando ci sono stati i nuovi accordi di Telco, c'era stata molta speculazione sul fatto che gli spagnoli avrebbero cercato di promuovere un'offerta per far cedere a Telecom Team Brasil. Ora, questo tentativo pare che sia diciamo nelle secche, nel senso che secondo indiscrezioni attendibili si sarebbe riuscita a mettere insieme una cifra intorno ai 6 miliardi per la quota che ha Telecom in Team Brasil, ma queste non sono ritenute assolutamente sufficienti dal gruppo, e quindi per il momento non se ne parla. L'impressione è che non se ne parlerà per tutto il resto dell'anno, che gli spagnoli sono rimasti diciamo spiazzati dalla decisione dell'antitrust brasiliano di metterli sostanzialmente in mora, dicendo che o escono da Telecom o si rivendono il 50% di Vivo. E altrimenti, secondo l'antitrust brasiliano, Telefonica direttamente con Vivo e indirettamente con Team Brasil ha il monopolio, o ha il quasi monopolio, sì, della telefonia mobile in quel paese. Perché certo, il numero uno e il numero due li hai tu. Per quello che riguarda i conti, invece, chiudendo su questo, qualche sorpresa, ma soprattutto le prospettive sul 2014 emerse dal piano di oggi? Allora, diciamo, vabbè, i conti del 2013, chiamiamoli passato, che cosa indicano? Che c'è stato un leggero miglioramento del mercato domestico, che rappresenta il 70% dei ricavi del gruppo nell'ultima parte dell'anno, però siamo ancora in uno scenario, in ogni caso, di rallentamento. Un mercato ricco come margini, ma in calo. E il proposito del management è di puntare sui servizi a più alto valore aggiunto, in modo da tenere alti gli utili. E diciamo che la prospettiva per quest'anno è che non ci sia più bisogno di fare svalutazione degli avviamenti, cosa che ha mandato in rosso i conti del 2013, e che quindi il sacrificio, chiamiamolo così, della mancata cedola per quest'anno resterà un'eccezione, perché il prossimo anno ci sarà tutto lo spazio per pagarla di nuovo. Ce lo auguriamo in primo luogo per gli azionisti delle Telecom ordinarie. Grazie a Antonello Olivieri del Sole 24 Ore. Traffico, e poi ultimo tema di questa giornata, la sentenza della Corte d'Appello che, a sorpresa, ha ribaltato la condanna alle banche per la vicenda dei derivati al Comune di Milano. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. C'è molta confusione, una giungla nella nostra testa, perché è chiaro che la sentenza d'appello esiste anche per ribaltare, cambiare la sentenza di primo grado, però cioè, tutti assolti perché il fatto non sussiste, sono contento, ci mancherebbe. Con una sentenza clamorosa la Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di primo grado e quindi ha assolto le banche UBS, Deutsche Bank, DEPFA Bank e JP Morgan dall'accusa di truffa aggravata ai danni del Comune di Milano per la vendita di prodotti derivati nel 2005. In primo grado erano state condannate a pagare 1 milione di euro a testa e alla confisca di 89 milioni di euro. Per dovere di informazione ricordo anche che sono stati assolti con formula piena, perché il fatto non sussiste, anche i 9 manager ed ex manager che in primo grado erano stati condannati, quindi Marco Sant'Arcangelo, Antonia Creanza, Tommaso Zibordi, Gaetano Bassolino, che è figlio di Bassolino, Carlo Arosio, William Francis Marrone, Fulvio Molvetti e Matteo Stassano, nonché Alessandro Foti. Quindi l'accusa che le quattro banche avessero raggirato il Comune di Milano ai tempi della Giunta Albertini, e poi questo swap trentennale fu rinnovato anche dalla Giunta Moratti, e non avessero sostanzialmente informato il comune di tutti i rischi dell'operazione, è un'accusa che è caduta. Nel frattempo il comune di Milano però si era costituito parte civile ed era poi uscito dal processo dopo un accordo di transazione con i quattro istituti dal valore di circa 455 milioni di euro. Sara Monaci del Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera. Allora, le sentenze si rispettano, vale sempre, a maggior ragione quando c'è una sentenza di assoluzione, per carità. Però possiamo almeno capire come mai è stata ribaltata completamente la sentenza di primo grado? Cioè, l'impianto accusatorio è crollato. Perché? Sì. Allora, non è facile capirlo, anche perché la sentenza di appello ha completamente ribaltato inaspettatamente il primo grado. Si pensava inizialmente che sarebbero state alleggerite le posizioni dei manager e non quelle delle banche. Ecco, per i giudici della Corte di Appello il fatto non sussiste sostanzialmente, semplifichiamo, perché qualora due parti si trovino a firmare consapevolmente, più o meno consapevolmente, un contratto, sono legittimamente chiamate a risponderne e non si possono poi scaricare le colpe uno sull'altra. Questa è, diciamo, l'idea, tanto più che i manager avrebbero poi lavorato nell'esercizio delle loro funzioni, quindi seguendo quelle che erano le indicazioni delle banche. Cosa c'è però di vero, diciamo storicamente vero, che non possiamo far finta di ignorare? Ci sono stati degli anni, quindi tra il 2000 e il 2005 2006, in cui i prodotti derivati sono stati venduti in modo molto disinvolto dagli istituti di credito, prima italiani e poi stranieri. Ricordo istituti stranieri che prima li vendevano anche nei paesi anglosassoni, paesi scandinavi, poi lì sono stati bloccati dalle norme locali, perché ricordo ad esempio in Inghilterra gli enti locali non possono sottoscrivere derivati perché sono considerati troppo rischiosi. Quindi le stesse banche hanno cominciato a percorrere il territorio italiano. C'è anche il comune di Taranto, abbiamo di tutto. Certamente sono tantissimi, e altrettanto disinvoltamente sono stati firmati dagli enti locali. Perché? Perché a fronte dei rischi che si accollavano, che si sarebbero accollati per i successivi 15-30 anni, riuscivano però a coprire quei buchi in bilancio con i cosiddetti upfront, con dei quantitativi di milioni di denaro che serviva per coprire i bilanci del momento, bilanci che erano sotto la morsa del patto di stabilità, e quindi si accollavano, si prendevano in carico dei prodotti finanziari rischiosi che però nell'immediato riuscivano a dare un po', a far tirare il fiato a questi sindaci che non riuscivano a chiudere i bilanci, scaricando però i rischi sulle successive amministrazioni. Quindi, consapevoli o no, sono stati firmati. Gli stessi prodotti, va notato, non sono stati poi più fatti, nemmeno proposti dalle stesse banche negli anni successivi, quindi è nata, è maturata una consapevolezza a seguito di queste cause. Poi, sotto il profilo penale, si può dire che non ci sia stata truffa o truffa aggravata, come nel caso di Milano. Questo però non cambia il profilo civilistico. Infatti, come hai ricordato, Milano ha tuttavia incassato dei soldi grazie alla trattativa e alla restituzione che le banche hanno fatto, hanno restituito 455 milioni. Sì, che adesso in qualche modo, se mi fate dire la cosa, è una missione che, se tu restituisci 450 milioni al Comune di Milano, vuol dire che ritieni che un po' abbia ragione. Poi o che hai paura di avere torto in tribunale. Funzionano così le transazioni di solito. Tra l'altro, il fatto che, come tu ricordavi, la possibilità di vendere prodotti così rischiosi agli enti locali è stata levata, eliminata e proibito in Scandinavia e in Gran Bretagna, che non sono paesi, diciamo, contro la finanza. La Gran Bretagna è il tempio della finanza europea. Esattamente. Vuol dire che tutta questa, diciamo, leggerezza forse era anche da sanzionare. Io mi chiedo anche come il tribunale non abbia utilizzato, per esempio, il raffronto con altri paesi. Detto ciò, evidentemente ha avuto... Bisogna sottolineare una cosa, se permetti, che proprio i paesi come l'Inghilterra, che da una parte sono molto più severi con gli enti locali, dall'altra sono anche più severi nei confronti di chi poi questi derivati li sottoscrive. Sostanzialmente, dice la norma vigente in Inghilterra, la norma ti tutela, ti protegge, ti dice cosa fare e cosa non fare. Qualora poi ti rendi responsabile invece di una una firma, allora vai fino in fondo e sei responsabile. Infatti di solito poi le banche hanno sempre voluto portare i contenziosi in Inghilterra in tribunale, perché lì c'è una responsabilità anche dell'amministratore. Invece forte, qui invece qui l'amministratore non lo capiva, la banca diciamo non ha colpa, è passata la festa. Vabbè, niente, prendiamo atto, non voglio fare altri commenti, ringrazio Sara Monaci. Prego. Prendiamo atto della sentenza della Corte d'Appello di Milano, per cui non è vero che il Comune non sapesse i rischi che venivano sottoposti. Prendiamo atto che nei paesi più civili come Gran Bretagna e Scandinavia la legge vieta di vendere strumenti del genere agli enti locali, perché sono enti che gestiscono poi strade, asili e quant'altro, non possono essere investiti in maniera così rischiosa. Prendiamo atto di tutto, ma soprattutto che è la fine di Focus Economia. Vi auguro un buon fine settimana, ringrazio come sempre Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.